Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, vabbè, iniziamo! Oh, no, buonasera, ben ritrovate, ben ritrovati e ben ritrovato su Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Ci trovate con lo streaming sul sito radiowombat.net, dove trovate anche tutti i podcast di trasmissioni attive e non, come infatti anche questa, Nervature, la trasmissione che vi parla di piante, botanica, biologia, giardinaggio, progettazione, urbanistica e chi più ne ha più ne metta. Ci trovate altrimenti, anche se siete in macchina, per esempio nell'area fiorentina e dintorni, anche sulle frequenze AM sulle 13.59. Mi raccomando, infatti, continuate e seguiteci, continuate ad ascoltarci. Questa è la seconda puntata dell'audiolibro La Nazione delle Piante, autore Stefano Mancuso, ricercatore e divulgatore scientifico ormai di fama internazionale nel campo della botanica e della biologia. Libro edito dalla Terza nel 2019. Articolo 3. La nazione delle piante non riconosce le gerarchie animali, fondate su centri di comando e funzioni concentrate, e favorisce democrazie vegetali diffuse e decentralizzate. Piante e animali si sono separati fra 350 e 700 milioni di anni fa in un periodo decisivo per la storia dell'evoluzione sul nostro pianeta. In corrispondenza di questo snodo fondamentale, infatti, la vita prenderà due strade divergenti che porteranno da un lato alla nascita delle piante e dall'altro a quella degli animali. Le prime, grazie alla loro prodigiosa abilità fotosintetica, non avranno bisogno di spostarsi alla ricerca di cibo, essendo energeticamente autonome. I secondi, al contrario, obbligati per sopravvivere a predare altri organismi viventi, saranno costretti al movimento in costante ricerca di quella stessa energia chimica che le piante hanno originariamente fissato dalla luce del sole. Una scelta iniziale dalla quale deriveranno organismi molto differenti in termini di organizzazione e funzionamento. Essere radicati al suolo, senza possibilità di spostarsi dal luogo in cui si è nati, ha delle conseguenze fondamentali. Le piante non sfuggono di fronte a un predatore, non vanno alla ricerca di cibo, non si spostano verso ambienti più inconfortevoli. Le piante non hanno la possibilità di adoperare la principale soluzione che gli animali utilizzano per risolvere qualunque difficoltà, il movimento. Ma se non si può scappare, com'è possibile resistere ai predatori? Il trucco non sta nel non avere alcun organo fondamentale singolo o doppio, distribuendo al contempo sull'intero corpo tutte quelle funzioni che gli animali concentrano. Il trucco sta proprio in questo, quindi nel non avere alcun organo fondamentale singolo o doppio, distribuendo al contempo sull'intero corpo tutte quelle funzioni che gli animali concentrano in organi specializzati. Gli animali vedono con gli occhi, sentono con le orecchie, respirano con i polmoni, ragionano con il cervello, eccetera, eccetera. Le piante vedono, sentono, respirano e ragionano con tutto il corpo. Una differenza fondamentale: concentrazione contro distribuzione, le cui conseguenze per la vita di noi animali non sono immediatamente intuibili. Ovviamente, a chiunque è evidente l'estrema fragilità del nostro corpo. Basta un banale malfunzionamento di uno qualsiasi dei nostri organi perché la nostra sopravvivenza sia pregiudicata. È una delle conseguenze della nostra organizzazione. Non è l'unica e credo neanche la più importante. L'essere costruiti con un cervello presiede alle funzioni dei vari organi specializzati. L'essere costruiti con un cervello che presiede alle funzioni dei vari organi specializzati ha influenzato in pratica qualunque tipo di organizzazione o struttura l'uomo abbia mai ideato. Replichiamo dappertutto questa organizzazione centralizzata e verticistica. Le nostre società sono costruite secondo lo stesso schema. Le nostre aziende, gli uffici, le scuole, gli eserciti, le associazioni, i partiti, tutto è organizzato secondo strutture piramidali. I nostri stessi strumenti, anche quelli più moderni come il computer, sono dei semplici analoghi sintetici di noi stessi. Un processore che mima le funzioni del nostro cervello, che governa delle schede, hardware, che imitano delle funzioni dei nostri organi. L'unico vantaggio di questo tipo di organizzazione è la velocità. Un capo, che sia l'unico intitolato a decidere, dovrebbe essere in grado di stabilire velocemente le azioni da compiere. Questa qualità delle organizzazioni centralizzate, sebbene garantisca la necessaria velocità di azione al corpo animale, fallisce tuttavia malamente nella pratica umana. Ogni organizzazione gerarchica, infatti, evolve una sua burocrazia, ossia un gruppo di persone la cui funzione è di trasformare in consuetudine il meccanismo di trasmissione dei comandi attraverso i diversi livelli della gerarchia. La trasmissione da un livello all'altro della catena gerarchica, oltre che essere inevitabilmente soggetta ad errori, richiede del tempo. eliminando così la velocità di azione. Ossia l'unico vero vantaggio ascrivibile ad un'organizzazione centralizzata. Rimangono invece intatti gli innumerevoli svantaggi. Dalla fragilità dell'organizzazione, cui basta rimuovere un qualunque organo fondamentale perché crolli, alla distanza fra il centro che prende le decisioni e il luogo in cui le decisioni stesse hanno effetto. E non è affatto finita qui. I problemi conseguenti all'esistenza della burocrazia, tessuto connettore fondamentale in ogni organizzazione gerarchica, sono numerosi e uno peggiore dell'altro. Prenderne coscienza può aiutarci a capire in che ginepraio ci siamo andati a cacciare. Si tratta di problemi inevitabilmente legati all'esistenza stessa della catena gerarchica. Prendiamo ad esempio il principio di Peter, di cui probabilmente avete sentito parlare immaginando si trattasse di una specie di scherzo, un giochetto che descrivesse in maniera umoristica la situazione tipica che si viene a creare all'interno delle peggiori burocrazie e che invece descrive una gravissima difficoltà presente in ogni gerarchia. Questo principio, ideato da Lawrence J. Peter nel 1969, osserva che le persone in una gerarchia tendono a raggiungere il proprio livello di incompetenza. Che cosa significa? Immaginate una organizzazione gerarchica perfetta in cui ogni membro dell'organizzazione sia promosso da un livello a quello successivo soltanto in virtù dei propri meriti. Un'organizzazione utopica, dove le gelosie, la politica, i rancori, le amicizie, la famiglia, il censo, le relazioni non abbiano alcuna influenza sul modo in cui le persone sono promosse da un livello all'altro. Astraiamoci per un attimo dal nostro squallido mondo di piccoli interessi di carriera, odi e ripicche personali e liberiamoci con la mente fino ai livelli empirei di questa miracolosa organizzazione, nella quale solo il merito, e soltanto quello, è il motore della carriera dei propri membri. Sembrerebbe l'organizzazione perfetta, vero? Eppure, per il solo fatto che è gerarchica, ci dice Peter, guardate un po' come un'organizzazione del genere è incapace di funzionare. Un qualunque membro della piramide, infatti, poiché competente ad un determinato livello dell'organizzazione, proprio in virtù di queste sue qualità, sarebbe promosso ad una posizione più alta nella gerarchia, dove sono richieste competenze diverse. Qualora la persona appena promossa non abbia le competenze adatte al nuovo livello raggiunto, rimarrebbe a questo livello, chiamato Peter's Plateau. O in alternativa, mostrandosi competente anche in questo nuovo livello raggiunto, proprio in virtù di ciò, verrebbe di nuovo promosso fino ad arrivare, per forza di cose, ad un livello nel quale, non essendo più competente, rimarrebbe bloccato. In ogni caso, il risultato inevitabile, alla fine, non potrebbe essere altro che quanto enunciato dal principio di Peter, ossia che, in una gerarchia, ogni dipendente tende a salire al suo livello di incompetenza. Un principio già intuito un secolo prima da José Ortega y Gasset, il quale scriveva: «Tutti i dipendenti pubblici dovrebbero essere retrocessi al loro livello immediatamente più basso, poiché sono stati promossi fino a diventare incompetenti». Nonostante il libro in cui Peter per la prima volta espone questo principio sia stato scritto con un intento satirico, le conclusioni cui giunge sono tutt'altro che stravaganti, come confermato da una lunga serie di studi svolti negli anni successivi. Uno dei più recenti, pubblicato nel 2018, ad esempio, ha preso in esame le pratiche utilizzate per la promozione dei dipendenti in 214 aziende americane, scoprendo che tendevano a promuovere in posizioni gestionali persone che nelle loro precedenti mansioni si erano dimostrate molto capaci con le vendite, ma con nessuna o soltanto trascurabile competenza nella gestione. Il principio di Peter non è certamente l'unico problema connesso alle burocrazie e quindi, indirettamente, ad ogni organizzazione gerarchica. Una volta creata, infatti, per rispondere alla necessità di veicolare gli ordini fra livelli diversi dell'organizzazione, ogni burocrazia tende a crescere senza controllo, moltiplicando i propri membri fino a che ne esiste la possibilità, ovvero finché esistano risorse da consumare. Nel 1955 Cyril Northcote Parkinson, in un celebre saggio pubblicato originariamente su The Economist e in seguito in volume, enunciava quella che verrà in seguito conosciuta come la legge di Parkinson, formulata sulla base del comportamento dei gas, che si espandono fin tanto ci sia volume disponibile. La legge di Parkinson afferma che la burocrazia si espande sempre finché le è possibile. A sostegno della sua legge, Parkinson cita una serie di esempi e di conseguenti dati empirici molto efficaci. Fra questi, l'aumento continuo e senza flessioni del numero di impiegati presso l'ufficio delle colonie dell'impero britannico, nonostante negli anni il numero delle colonie si riducesse, che raggiunse il suo massimo quando, non essendoci più colonie da amministrare, fu assorbito dal Ministero degli Esteri. Secondo la legge di Parkinson, questo accade inevitabilmente in ogni burocrazia, a prescindere dal fatto che il lavoro rimanga lo stesso, diminuisca o addirittura scompaia. Il motivo è da ricercarsi nella semplicissima ragione che i membri di una burocrazia tendono a moltiplicare i subordinati e non i possibili rivali. Vediamo di chiarire questo punto. Un lavoratore che abbia una certa quantità di lavoro da svolgere e che si accorga di non riuscire più a portarlo a termine perché il lavoro è aumentato o semplicemente perché non ha più voglia di farlo, si trova di fronte a tre possibili strategie per risolvere il problema. 1. Può dimettersi. 2. Può decidere di dimezzare il lavoro con un collega. O infine, 3. Può decidere di assumere due dipendenti. Devono essere necessariamente due. Se fosse uno solo diventerebbe infatti un rivale e ci troveremmo in una situazione da caso due, che lavorino alle sue dipendenze. Ora analizziamo velocemente le conseguenze di ognuna di queste tre opzioni. La prima è presto scartata in quanto lascerebbe il lavoratore senza lavoro. La seconda porterebbe alla creazione di un potenziale rivale in vista di una promozione. Mentre la terza è l'unica strategia che consentirebbe al lavoratore di mantenere inalterata la sua posizione e le sue possibilità di carriera, lavorando di meno. Inevitabilmente, dopo poco, anche i due dipendenti neoassunti si troveranno nella stessa situazione e la sola soluzione possibile sarà di assumere due persone subordinate per ciascuno di loro. Ecco che, seguendo queste dinamiche diaboliche, in breve, sette persone si troveranno a svolgere la stessa quantità di lavoro che prima era svolta da una. È possibile esprimere la legge di Parkinson anche in forma matematica, attraverso una semplicissima formuletta, la cui risoluzione ci dice che, in accordo con Parkinson, la crescita percentuale annua dei membri di un'organizzazione sarà invariabilmente compresa tra il 5,17 e il 6,56%. Ed è straordinario vedere come molti apparati burocratici davvero crescano con tassi prossimi a quelli previsti dalla legge di Parkinson. Insomma, la burocrazia è una delle peggiori conseguenze delle organizzazioni animali, ossia centralizzate, piramidali e con una catena di comando. Alla fine, scrive Max Weber, ogni burocrazia cessa di servire la società che l'ha creata, diventando fine a se stessa, crescendo come un corpo estraneo, prendendo provvedimenti che la proteggano e imponendo regole non funzionali che servono esclusivamente a giustificare le proprie dimensioni. Basterebbero i soli danni prodotti dalle burocrazie perché l'articolo 3 della Costituzione della Nazione delle Piante, che non riconosce le organizzazioni basate su gerarchie, ispirate all'architettura animale, risplendesse per la sua saggezza. Purtroppo, le burocrazie sono soltanto uno, e niente affatto il peggiore, dei molti problemi che affliggono le organizzazioni gerarchiche e centralizzate. Altri ne vedremo nelle prossime pagine. Uno dei problemi meno conosciuti delle organizzazioni gerarchiche è che fanno male alla salute. Nel 1967 in Gran Bretagna venne avviato uno studio sullo stato di salute fisica e mentale dei dipendenti pubblici britannici. Lo studio, chiamato Whitehall, si focalizzò sui dipendenti pubblici in quanto rappresentanti di una classe media, in buona salute e non esposta a pericoli diretti per la propria incolumità, come potrebbe avvenire, ad esempio, in altre categorie quali minatori, soldati e simili. Il servizio pubblico britannico, come la maggior parte delle organizzazioni di grandi dimensioni, è molto gerarchico. I suoi dipendenti sono classificati da 1 a 8 a seconda del livello gerarchico e le loro retribuzioni sono in diretta relazione al grado. Più è alto, maggiori sono retribuzioni e prerogative. Lo studio prese in esame inizialmente oltre 18.000 funzionari di sesso maschile, di età compresa tra i 20 e i 64 anni, per un periodo di 10 anni. Successivamente, una seconda ricerca interessò altri oltre 10.000 dipendenti pubblici, tra i 35 e i 55 anni, di cui 2/3 erano uomini e 1/3 donne. Il risultato principale di questa serie di studi dimostrò incontrovertibilmente che esisteva un'associazione diretta fra il grado raggiunto dal lavoratore e il tasso di mortalità. Minore è il livello gerarchico, più alto è il tasso di mortalità. Gli impiegati a livello più basso della gerarchia, messaggeri, guardiani, presentavano un tasso di mortalità 3 volte superiore a quello riscontrato nel grado più alto, amministratori. L'effetto, che da allora in poi è stato verificato in molti altri studi analoghi, è stato nominato sindrome dello status. Inoltre, questi studi rivelarono che il grado raggiunto nella burocrazia era indirettamente correlato ad una serie di patologie, quali alcuni tipi di cancro, malattie cardiache, gastrointestinali, depressione, mal di schiena, eccetera, eccetera. Ora, certamente gran parte di queste patologie erano associate direttamente a fattori di rischio quali obesità, fumo, pressione sanguigna alta, mancanza di attività fisica, direttamente legati alla classe sociale e quindi al basso reddito, senza legami di alcun tipo con la posizione nella gerarchia. Ma ciò che rimaneva inspiegabile era che questi fattori di rischio incidevano soltanto in parte sul risultato finale. Anche controllandoli, rimaneva comunque un rischio di malattie cardiovascolari nei livelli più bassi della gerarchia, 2,1 volte più alto rispetto ai livelli gerarchici superiori. Il fattore decisivo che modificava in maniera così significativa il tasso di mortalità era il livello di stress molto superiore che si riscontrava nei livelli inferiori della gerarchia. Questo livello di stress più alto nei livelli bassi della gerarchia è legato direttamente all'organizzazione gerarchica, tanto che le condividiamo anche con animali a noi vicini, come i babbuini che hanno gruppi fortemente gerarchici. Infatti, negli maschi alfa, ossia nelle scimmie ai livelli gerarchici superiori, la quantità di glucocorticoidi, una classe di ormoni steroidei, fra i quali il cortisolo, definito anche come ormone dello stress, nel sangue era a livelli significativamente più bassi di quanto non si riscontrasse nei livelli gerarchici inferiori. Addirittura, i livelli più bassi della gerarchia immagazzinavano grasso soprattutto intorno alla pancia, mentre i maschi alfa distribuivano il grasso in modo uniforme all'interno del corpo. In altre parole, le scimmie subordinate assumevano un aspetto più rotondo e passivo, consono al loro livello gerarchico, in contrapposizione ai capi magri e muscolosi. Poi, un giorno, in questo gruppo di babbuini, accadde che i maschi alfa e molti dei maschi più alti in gerarchia morissero di tubercolosi, lasciando un gruppo dimezzato e formato da molte più femmine e maschi di basso livello. Per una serie di motivi, il gruppo imparò un nuovo sistema di interazione senza gerarchie e iniziò ad insegnarlo anche ai nuovi maschi che arrivavano nel gruppo. Da quel momento, il tasso di glucocorticoidi nel sangue dei membri del gruppo si è livellato, mostrando una riduzione significativa del livello di stress. Quindi, ricapitolando, le gerarchie fanno male alla salute. Finito? Ma che siamo appena all'inizio, purtroppo. Il peggio deve ancora arrivare. Qualsiasi organizzazione centralizzata e gerarchica, ad esempio, è inerentemente fragile. Hernán Cortés e Francisco Pizarro, accompagnati da poche centinaia di uomini, indebolirono in maniera decisiva due civiltà millenarie, l'Azteca e l'Inca, con la semplice cattura dei loro vertici, Montezuma e Atahualpa. Due civiltà evolute e con conoscenze avanzate in numerosi settori della scienza, costituite da milioni di persone, infatti la sola città di Tenochtitlan, quando Cortés vi giunse, l'8 novembre del 1919, contava intorno a 250.000 abitanti, si dissolsero in un batter d'occhio, sotto l'assalto dei conquistadores. Ovviamente, furono molte le cause che concorsero alla caduta di quegli imperi. Fra queste, poco citata, c'era l'estrema centralizzazione del potere, concentrato nelle mani di pochi. Gli Apache, molto meno progrediti di Aztechi e Inca, ma dotati di una struttura distribuita e senza alcun potere centralizzato, resistettero per secoli all'avanzata spagnola, impedendo la loro espansione verso il nord del continente. Ma anche la fragilità non è davvero il peggiore dei problemi delle organizzazioni gerarchiche. Nel 1963, Hannah Arendt pubblicava La banalità del male, uno dei libri fondamentali per la comprensione della storia del XX secolo. Il libro è frutto della sua attività di cronista durante il processo al criminale nazista Adolf Eichmann, responsabile della morte di milioni di ebrei. Dal dibattito in aula, la difesa di Eichmann è tutta incentrata sulla obbedienza all'autorità. L'Arendt trarrà la convinzione che Eichmann fosse, così come la maggior parte dei tedeschi corresponsabili della Shoah, non lo furono a causa di una loro speciale disposizione al male, ma perché parte di un'organizzazione gerarchica in cui i burocrati, addetti alla trasmissione degli ordini, erano inconsapevoli del significato ultimo delle loro azioni. Le affermazioni dell'Arendt sembrarono al tempo irragionevoli. La tesi che, data un'organizzazione gerarchica in cui uno ci sia sufficiente distanza fra le proprie azioni e il risultato della stessa, due, l'autorità sia forte e tre, i cui rapporti all'interno della gerarchia siano spersonalizzati, si possa ricreare l'orrore della Shoah sembrò ai più totalmente inaccettabile. Quello che l'Arendt scriveva scandalizzò il mondo. Non solo la Shoah poteva accadere di nuovo, ma chiunque ne sarebbe potuto essere responsabile. Un'ipotesi sconvolgente, che soltanto con il tempo iniziò ad essere elaborata in maniera corretta, ma che all'inizio suscitò in moltissimi soltanto una reazione di rifiuto completo. Non poteva essere vero che un'enormità come la Shoah dipendesse in prima istanza da una forma di organizzazione. Le reazioni alla tesi dell'Arendt furono violente e la sua idea che il male potesse sorgere banalmente dovunque fu rifiutata in blocco. Nello stesso anno di pubblicazione della Banalità del male, uno psicologo di Yale, Stanley Milgram, otteneva una stupefacente serie di risultati sperimentali pubblicandoli su una rivista specializzata. E 10 anni dopo, in un libro dal titolo Obbedienza all'autorità, che dovrebbe sempre essere letto insieme alla Banalità del male. L'esperimento ideato da Milgram era basato sull'interazione fra 3 persone. Uno scienziato, che rappresentava l'autorità, un insegnante, che eseguiva gli ordini dell'autorità, e uno studente, soggetto alle decisioni dell'insegnante. Insegnante e studente sono in 2 stanze diverse. Lo studente è collegato a degli elettrodi attraverso i quali l'insegnante può somministrare delle scariche elettriche. Compito dell'insegnante è di istruire lo studente a ripetere delle coppie di parole. Quando lo studente sbaglia, l'insegnante lo punisce con una scarica elettrica di intensità via via crescente, con un minimo di 15 volt ad un massimo potenzialmente mortale di 450. Sia lo studente sia lo scienziato sono 2 attori. Tutti i macchinari sono una messa in scena. Il vero soggetto del test è l'insegnante. Ciò che interessa Milgram è conoscere il numero di coloro disposti a seguire le indicazioni dell'autorità, lo scienziato, fino al punto di punire lo studente con dosi di corrente potenzialmente letali. Senza entrare nel dettaglio dell'esperimento, che chiunque può comunque trovare in rete, i risultati furono eclatanti. La percentuale di insegnanti che somministrarono la massima scarica superò il 65%. In una serie di varianti dell'esperimento in cui lo studente era nella stessa stanza dell'insegnante, quindi vicinanza, o in cui 2 scienziati discutevano, principio di autorità indebolito, la percentuale scendeva sotto il 20%. Era la dimostrazione sperimentale, l'evidenza scientifica di quanto affermato dalla Arendt. Negli anni successivi, l'esperimento di Milgram, dopo essere stato anch'esso fortemente contestato, è stato ripetuto nei più svariati contesti, dando sempre risultati molto simili. Nonostante i diversi aspetti negativi, o quantomeno problematici, evidenziati fin qui, le organizzazioni gerarchiche, con la loro perfetta riproduzione dell'architettura e del funzionamento del corpo animale, sono dappertutto. Possibile che non riusciamo a immaginare niente di diverso, come potrebbero essere, ad esempio, delle organizzazioni diffuse, costruite come il corpo di una pianta? Eppure, esempi importanti esistono, non solo, ma rappresentano quasi sempre organizzazioni moderne. Internet stesso, il simbolo stesso della contemporaneità, è costruito come una pianta, completamente decentralizzato, diffuso, formato da un elevatissimo numero di nodi identici e ripetuti, senza organi specializzati. Mettete a confronto la topografia di un apparato radicale con una qualunque mappa di internet e non vi sfuggirà la similarità architetturale. Le piante, apparati radicali compressi, sono costruite in maniera modulare. Singoli moduli che si ripetono infinite volte a formare strutture sempre più vaste e complesse, ma che non hanno alcun centro fondamentale. Un apparato radicale è costituito da un numero astronomico di apici radicali, possono essere centinaia di miliardi in un albero, che diffondendosi nel suolo ed esplorandolo alla ricerca dei nutrienti e dell'acqua di cui la pianta necessita, formano una rete talmente complessa da rivaleggiare con la complessità strutturale delle nostre reti neurali. A differenza del nostro cervello, tuttavia, che è incredibilmente fragile e in cui diverse aree cerebrali sono specializzate per lo svolgimento di specifiche funzioni, in un apparato radicale le funzioni sono diffuse dappertutto. Così le radici, non avendo aree specializzate in funzioni fondamentali, possono tranquillamente sopravvivere a estesi danneggiamenti che interessino la maggioranza dell'intera rete radicale. È affascinante accorgersi come anche l'architettura della chioma di un albero, nonostante ogni specie sia diversa dall'altra, tanto da essere distinguibile ad un occhio esperto, anche da grandi distanze, risponda alle stesse regole di diffusione e ripetizione di moduli simili. Nel 1972, Ruelof Oldman, remando in piroga sullo Yaroupi, un fiume della Guyana francese, si accorse che gli alberi erano formati da moduli reiterati, che ne rappresentavano le esatte caratteristiche architetturali. Chiunque osservi un succhione o un pollone, ossia uno di quei germogli molto vigorosi che si producono a partire da gemme latenti, generalmente poste alla base del fusto o degli alberi, può accorgersi che ognuno di loro raccoglie in sé le caratteristiche generali dell'albero. Dovunque si guardi, dalle radici alla chioma, ci si accorge che le piante sono costruite su un modello diffuso, opposto a quello centralizzato animale. Una organizzazione che permette libertà e robustezza allo stesso tempo. Negli ultimi anni, forme di organizzazione decentralizzate, che prevedono forme di decisione diffusa e dove il consenso e l'autorità derivano dalla propria competenza e capacità di influenzare, piuttosto che essere conferita dall'alto, stanno diffondendosi velocemente. In questi modelli organizzativi diffusi, senza centro di comando come nelle piante, i centri decisionali si diffondono e nascono spontaneamente a livello periferico, cioè lì dove devono essere per risolvere con esattezza i problemi, dove le informazioni sono maggiormente disponibili e la necessità chiare. La nazione delle piante, utilizzando soltanto modelli organizzativi diffusi, decentralizzati e reiterati, si è liberata per sempre dei problemi di fragilità, burocrazia, distanza, sclerosi, inefficienza, tipici dell'organizzazione gerarchica o centralizzata di natura animale. Siete sempre su Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Io sono Addu, questa è Nervature ed è la seconda puntata dell'audiolibro La Nazione delle Piante, libro di Stefano Mancuso del 2019. Continuiamo quindi con il quarto capitolo. Articolo 4. La nazione delle piante rispetta universalmente i diritti dei viventi attuali e di quelle delle prossime generazioni. Che sia burundese, italiano o islandese, l'uomo è il più compiuto dei predatori. Così come il leone osserva sonnacchioso e soddisfatto il pezzo di savana che rappresenta il suo territorio, con la tranquilla consapevolezza che nessun altro animale può contendergliene la sovranità, così la specie umana considera l'intero pianeta come qualcosa di sua esclusiva pertinenza. La Terra, la casa della vita, l'unico posto dell'universo che conosciamo in grado di ospitarla, è considerata dall'uomo né più né meno che una semplice risorsa da mangiare, da consumare. Qualcosa di simile ad una gazzella agli occhi di un leone sempre affamato. Che questa risorsa possa terminare, mettendo a rischio la stessa esistenza della nostra specie, non sembra interessarci. Avete mai visto quei film di fantascienza in cui delle cattivissime specie aliene, dopo aver consumato le risorse di innumerevoli altri pianeti come cavallette spaziali, arrivano sulla Terra con l'idea di farne un sol boccone? Siamo noi, quegli alieni. Soltanto che altri pianeti da distruggere dopo la Terra non esistono. Faremo bene a capirlo il prima possibile. Il consumo di materiale organico prodotto da altri esseri viventi è tipico della vita animale, che non essendo in grado, come le piante, di fissare autonomamente l'energia del sole, deve per forza affidarsi alla predazione di altri esseri viventi per garantirsi la sopravvivenza. È per questo che le piante sono raffigurate sempre alla base di quelle tipiche illustrazioni piramidali che troviamo rappresentate dovunque con il nome di piramide alimentare o piramide ecologica o piramide trofica. Qualunque sia il nome, il concetto è sempre lo stesso. Una piramide con le piante, ossia i produttori al posto più basso, che procede poi verso l'alto attraverso i vari livelli trofici. Gli erbivori mangiano le piante, poi più su i carnivori che mangiano la carne, poi gli onnivori che mangiano sia le piante che la carne. E così via fino ad arrivare ai super predatori che rappresentano il vertice della catena alimentare. A me queste rappresentazioni che mettono le piante al gradino più basso di una piramide sono sempre sembrate poco generose, per non dire sbagliate. Troverei più corretto che in alto fossero rappresentati gli organismi che producono l'energia chimica, non quelli che la consumano. Voglio dire, in una macchina è il motore la cosa più importante, no? Il resto non è fondamentale. Ecco, le piante sono il motore della vita, la parte fondamentale. Il resto è solo carrozzeria. Ogni volta che l'energia viene trasferita da un livello più basso a quello immediatamente superiore della piramide, ad esempio quando gli erbivori mangiano le piante, soltanto il 10 o 12% di essa è utilizzata per costruire della nuova biomassa, diventando energia immagazzinata, mentre il resto si perde nei vari processi metabolici. Pertanto, ad ogni livello, troveremo soltanto il 10% dell'energia presente al livello precedente. Si tratta di una diminuzione vertiginosa. Pensate, attribuendo ai produttori primari, le piante, un livello arbitrario di energia pari a 100.000, i livelli successivi saranno 10.000, 1.000, 100, 10, 1 e così via. In pratica, gli organismi posti all'apice della piramide, i cosiddetti superpredatori, sono quanto di meno sostenibile in termini energetici si possa immaginare. Gli studiosi di ecologia discutono da anni se l'uomo, sulla base della propria dieta, debba essere considerato o no un superpredatore. C'è chi sostiene che gli abitanti delle diverse nazioni della Terra abbiano diversi livelli trofici variabili dal 2,04 del Burundi, che ha una dieta quasi esclusivamente vegetale e quindi molto prossimo al livello 2 degli erbivori puri, fino al livello 2,57 degli islandesi, che, al contrario, hanno una dieta soltanto al 50% vegetale. Per chi fosse interessato, questi livelli trofici ci accomunerebbero al maiale. Altri ecologisti, invece, ritengono che l'uomo sia da considerarsi il predatore apicale di ogni catena trofica. Ho sempre trovato questa discussione affascinante nella sua futilità. È ovvio che l'uomo sia il vero e unico superpredatore di questo pianeta. Non solo, le sue peculiarità lo rendono incredibilmente più pericoloso per le altre specie di qualsiasi altro essere vivente. È proprio nella sua attività di superpredatore, ossia nella massima espressione animale che l'uomo consuma a ritmo crescente risorse non rigenerabili. E con i prodotti di scarto di questa sua insensata attività, inquina aria, suoli e acqua. Quanto sia pericolosa questa attività predatoria e quali danni abbia già prodotto è scarsamente percepito. Certo, si sente parlare di riscaldamento globale, cambiamenti climatici, inquinamento urbano, diminuzione della biodiversità, ma non credo che la gravità della situazione sia chiara ai più. Perlomeno me lo auguro. Il contrario significherebbe che l'umanità ha perso il senso del proprio futuro. Molti di voi avranno sentito parlare di antropocene. Ne ho scritto anch'io ultimamente. Ossia di questa vera e propria era geologica nella quale viviamo, il cui carattere predominante è dato dall'azione tellurica dell'attività umana. Ad esempio, l'uomo, attraverso la sua continua e irrefrenabile necessità di consumare, sta così profondamente incidendo sulle caratteristiche del pianeta da essere diventato la causa di una delle più terribili estinzioni di massa. Nella storia del nostro pianeta, per avere delle catastrofi di entità simile a quella in corso, sono stati necessari eventi apocalittici del tipo asteroidi, eruzioni, inversione del campo magnetico terrestre, supernove, innalzamenti o abbassamenti del livello degli oceani, glaciazioni e catastrofi simili. Eventi la cui periodicità è stata stimata oscillare fra i 30 e i 62 milioni di anni e la cui causa è stata ipotizzata dipendere da circostanze quali le oscillazioni del piano galattico o il passaggio della Terra attraverso le braccia a spirale della Via Lattea. Attraverso la sua storia, la Terra ha subito 5 estinzioni di massa ed un certo numero di estinzioni minori. Le 5 maggiori, identificate da Sepkoski e Raup in un noto lavoro del 1982, sono 1. L'estinzione dell'Ordoviciano Siluriano. Fra 450 e 440 milioni di anni fa si verificarono due eventi in grado di eliminare fra il 60 e il 70% di tutte le specie. Rappresentano la seconda più grande delle cinque principali estinzioni nella storia della Terra in termini di percentuale di generi che si sono estinti. 2. L'estinzione del tardo devoniano, durata forse intorno ai 20 milioni di anni, durante i quali circa il 70% delle specie esistenti è scomparso. 3. L'estinzione alla transizione fra Permiano e Triassico, 252 milioni di anni fa, il più drammatico evento di estinzione che abbia mai colpito la Terra. Fra il 90 e il 96% di tutte le specie esistenti furono spazzate via. 4. L'estinzione della transizione fra Triassico e Giurassico, 201 milioni di anni fa, durante la quale fra il 70 e il 75% di tutte le specie si estinse. E infine 5. L'estinzione durante la transizione fra Cretaceo e Paleogene, quella in cui si estinsero i dinosauri, 66 milioni di anni fa, in cui scomparve il 75% delle specie viventi. Oggi siamo nel bel mezzo della sesta estinzione di massa, un evento di una portata tale che percepirne le conseguenze non è per niente facile. L'odierno tasso di estinzione di specie del pianeta è inimmaginabile. Nel 2014, un gruppo di ricerca coordinato da Stuart Pym della Duke University stimò il normale tasso di estinzione sulla Terra, prima dell'apparizione dell'uomo, pari a 0,1 specie estinte per milione di specie per anno. Il tasso odierno sarebbe 1000 volte superiore, mentre i modelli per il prossimo futuro indicherebbero un tasso di estinzione fino a 10.000 volte più alto del normale. Sono i numeri di un'apocalisse. Mai nella storia del pianeta, anche durante le più catastrofiche estinzioni di massa, si sono raggiunti tassi di estinzione così elevati e soprattutto compressi in un così impercettibile lasso di tempo. Le passate estinzioni di massa di cui si ha conoscenza, sebbene veloci, si sono sempre manifestate lungo un arco di milioni di anni. L'attività umana, al contrario, sta concentrando la sua letale influenza sulle altre specie viventi in una manciata di anni. L'intera storia dell'Homo sapiens inizia soltanto 300.000 anni fa, meno di un battito di ciglia per i 3 miliardi e 800 milioni di anni di età della vita. Coloro che si preoccupano di magnifiche specie vegetali come l'ailanto, la robinia, il penniseto, eccetera, a causa della loro capacità di sostituire le specie native dai propri territori, dovrebbero essere consapevoli che, in confronto all'invasività dell'Homo sapiens, la pericolosità di ogni altra specie animale o vegetale che sia è solo uno scherzo. A fine 2017, 15.364 scienziati di 184 paesi firmarono una dichiarazione dal titolo World Scientists Warning to Humanity, A Second Notice, in cui si affermava: abbiamo scatenato un evento di estinzione di massa, il sesto in circa 540 milioni di anni, in cui molte forme di vita attuali potrebbero essere annientate o sulla via per l'estinzione entro la fine di questo secolo. Si potrebbe essere tentati di infischiarsene. Molti in cuor loro magari pensano: abbiamo distrutto intere civiltà umane, perché preoccuparsi della scomparsa di un numero, seppur elevato, di specie animali o vegetali? Sopravvivremo tranquillamente. Credo che sia questo il pericolo maggiore: pensare che quanto stiamo facendo non riguardi direttamente la conservazione della nostra civiltà. Non si parli nemmeno della sopravvivenza della nostra specie. Come potrebbe l'estinzione di piante, insetti, alghe, uccelli, mammiferi rari influire sulla nostra sopravvivenza? Ok, è triste che i rinoceronti, i gorilla, le balene, gli elefanti, le banane, le foche monache, le lucciole, le violette si estinguono, ma alla fine chi li ha mai visti? Viviamo in città. Per noi urbani la natura è roba da documentari, niente a che vedere con noi. A noi interessa lo spread, il PIL, l'Euroribor, il Nasdaq. Sono queste le cose che possono far crollare la civiltà come la conosciamo. Sbagliato! Lo ripeto, è l'idea talmente diffusa ad essere diventata un luogo comune che noi umani siamo fuori dalla natura che è veramente pericolosa. L'estinzione di un numero così elevato di specie in un tempo così breve è qualcosa le cui conseguenze non possiamo valutare. Scrive Rodolfo Dirzo, professore a Stanford ed esperto di interazione fra le specie. I nostri dati indicano che la Terra sta vivendo un episodio enorme di declino ed estinzione, che avrà conseguenze negative a cascata sul funzionamento degli ecosistemi e sui servizi vitali necessari a sostenere la civilizzazione. Questo annientamento biologico sottolinea la serietà per l'umanità del sesto evento di estinzione di massa della Terra. Ora, è vero che le Cassandre non sono mai state simpatiche a nessuno. Tuttavia, si tende a dimenticare che Cassandra, l'originale, la profetessa inascoltata, aveva ragione. Essere consapevoli del disastro che i nostri consumi stanno creando dovrebbe renderci tutti più attenti ai nostri comportamenti individuali, ma anche arrabbiati verso un modello di sviluppo che per premiare pochissimi distrugge la nostra casa comune. Continuiamo quindi con il quinto capitolo del libro La nazione delle piante di Stefano Mancuso. Articolo 5. La nazione delle piante garantisce il diritto all'acqua, al suolo e all'atmosfera puliti. Thank you. Agli inizi del secolo scorso, un famoso botanico russo, Kliment Arkadievich Timisoara, nel suo libro intitolato La vita delle piante, scriveva che i vegetali dovrebbero essere considerati come l'anello di congiunzione fra il sole e la terra. Senza le piante, infatti, l'energia del sole non sarebbe trasformata nell'energia chimica che alimenta la vita. Non solo. Esse svolgono un fondamentale e continuo lavoro di disinquinamento, assorbendo e degradando molti dei composti contaminanti prodotti dall'uomo. Al contrario di noi uomini, che svolgendo ognuna delle nostre normali attività, inevitabilmente inquiniamo il suolo, l'acqua e l'atmosfera del pianeta che ci ospita. Ma affrontiamo il discorso dall'inizio e vediamo se è possibile di rendere chiaro in cosa consiste esattamente il problema. Ogni essere vivente ha necessità di ottenere da qualche sorgente energetica la quantità di energia di cui necessita per sopravvivere. L'energia presente sul pianeta Terra deriva da tre fonti principali. Il Sole, il calore primordiale proveniente dalle origini del nostro pianeta, e infine il calore dovuto al decadimento radioattivo di alcuni materiali di cui sono composti la crosta e il nucleo terrestre. Ai fini pratici della nostra discussione possiamo tranquillamente dimenticarci degli apporti dovuti all'energia geotermica e concentrarci invece sull'energia del Sole, la vera sorgente energetica della vita sulla Terra. Anche l'energia che otteniamo dalla combustione di carbone o petrolio, infatti, non è altro che energia solare fissata originariamente dalle piante, qui intese nel senso molto generale di organismi fotosintetici. Così come l'energia che genera il vento, le correnti oceaniche o le onde è sempre, in origine, di derivazione solare. Insomma, sperando in fisici e geologi indulgenti, possiamo approssimare che per quanto ci riguarda, tutta l'energia del pianeta, con trascurabili eccezioni, provenga dal Sole. Ora che abbiamo semplificato il problema ai suoi termini principali, possiamo tornare alle piante, al ruolo centrale che svolgono nel garantire la sopravvivenza degli organismi, e a quanto affermato da Timisoara nel suo libro. A essere precisi, egli individuava non nelle piante ma in uno specifico organulo cellulare presente nelle cellule verdi, ovvero il cloroplasto, il vero anello di congiunzione fra la Terra e il Sole. Senza il cloroplasto, all'interno del quale si svolge il miracolo della fotosintesi, argomentava Timisoara, non ci sarebbe conversione dell'energia solare in zuccheri, energia chimica. Magari sulla Terra si sarebbe potuto comunque trovare qualche minima forma di vita, ma difficilmente avrebbe potuto essere una vita complessa e nella quantità enorme cui siamo abituati. Attraverso la fotosintesi e grazie all'energia del sole, le piante fissano l'anidride carbonica dell'atmosfera, formando zuccheri, ossia molecole altamente energetiche, e producendo come materiale di scarto ossigeno. La quantità media di energia prodotta dalla fotosintesi a livello planetario è di circa 130 terawatt, ossia circa 6 volte maggiore del consumo attuale di energia nella civiltà umana. Raccontando il ciclo del carbonio nel sistema periodico, Primo Levi scrive: «Se l'organicazione del carbonio non si svolgesse quotidianamente intorno a noi, sulla scala dei miliardi di tonnellate alla settimana, dovunque affiori il verde di una foglia, le spetterebbe di pieno diritto il nome di miracolo. Grazie a questo miracoloso processo, la vita ha potuto diffondersi e prosperare. La fotosintesi è, in pratica, l'unica responsabile dell'intera produzione di materia organica prodotta per via biochimica, la cosiddetta produzione primaria. La quantità di materiale generato dalle piante è difficilmente immaginabile. Le stime più attente indicano una produzione primaria per la Terra di 104,9 petagrammi di carbonio all'anno. O per chi non abbia immediatamente chiaro che un petagramma ammonta a una quantità in grammi pari a 1 seguito da 15 zeri, 104,9 miliardi di tonnellate di carbonio fissato dalle piante ogni anno. Di questi, il 53,8% è il prodotto di organismi terrestri, mentre il restante 46,2% è rappresentato dalla produzione oceanica. Questa enorme quantità di sostanza organica, generata attraverso la fotosintesi, rappresenta il motore della vita sulla Terra. Una volta prodotta dalle piante, questa energia chimica, se volete potete immaginarla sotto forma di cibo, o di carbone o di petrolio, è utilizzata come carburante dal resto della vita animale, che l'adopera nelle quantità necessarie a garantirsi la sopravvivenza, e dall'uomo che ne fa invece un uso smodato, utilizzandola come fonte energetica del proprio sviluppo. Quando questo carburante brucia, produce inevitabilmente residui che alterano l'equilibrio dell'ambiente e inquinano. La CO2, ad esempio, è prodotta ogni qualvolta si effettui una combustione. Sia che bruciamo zuccheri o grassi per ottenere l'energia necessaria al funzionamento del nostro corpo, sia che bruciamo petrolio, gas, carbone, legna o qualunque altro tipo di combustibile originariamente prodotto attraverso la fotosintesi, il risultato finale è la produzione di anidride carbonica. Le attività umane emettono circa 29 miliardi di tonnellate di CO2 all'anno, mentre per comparazione i vulcani ne emettono 100 volte meno, fra 200 e 300 milioni di tonnellate. La CO2 che si accumula nell'atmosfera è la principale responsabile del cosiddetto effetto serra e quindi dell'innalzamento della temperatura del pianeta. Attraverso la sua attività, in particolare combustione di combustibili fossili e deforestazione, l'uomo dall'inizio della rivoluzione industriale ha aumentato la concentrazione media annua di CO2 nell'atmosfera dai 280 ppm, ovvero parti per milione, alla quale era rimasta stabile per circa 10.000 anni, agli attuali del 2019 410 ppm. La concentrazione è senz'altro più alta degli ultimi 800.000 anni, se non, con alta probabilità, degli ultimi 20 milioni di anni. Ovviamente il ciclo del carbonio è molto più complesso di quanto appena tratteggiato e coinvolge un numero enorme di variabili legate alla vita sulla Terra. Ad esempio, non tutta la CO2 emessa dalle attività umane va necessariamente ad aumentare la quota libera nell'atmosfera. Una percentuale di circa il 30% si scioglie negli oceani, a formare acido carbonico, bicarbonato e carbonato. Questa quota oceanica, se da una parte è fondamentale perché blocca una quantità di CO2 che altrimenti ritroveremmo nell'atmosfera, dall'altra parte porta al fenomeno dell'acidificazione degli oceani, che è responsabile della distruzione delle barriere coralline e ha un profondo impatto sulla vita di tutti gli organismi calcificanti come coccolitofori, coralli, echinodermi, foramiferi, crostacei e molluschi e conseguentemente sull'intera catena alimentare. Insomma, il problema vero è che fino ad un certo punto il ciclo del carbonio ha funzionato a dovere. Da una parte la CO2 si liberava nell'atmosfera con le combustioni, digestioni, fermentazioni, eccetera, e dall'altra si fissava nelle piante attraverso la fotosintesi. Un ciclo, appunto. In grado di assorbire senza traumi oscillazioni anche importanti nelle quantità di anidride carbonica e alla fine mantenere tutto inalterato. Per milioni di anni questo sistema ha funzionato come un orologio, finché, in concomitanza con la rivoluzione industriale, la quantità di CO2 emessa nell'atmosfera con l'uso dei combustibili fossili è diventata così enorme da non poter essere più interamente fissata dalle piante. Ma per capire meglio cosa sta succedendo, è necessario fare un passo indietro. Un passo piuttosto lungo, in verità. Non è la prima volta, infatti, che nella storia della Terra il livello di CO2 raggiunge livelli allarmanti. Tutt'altro. Intorno a 450 milioni di anni fa, la concentrazione dell'atmosfera terrestre raggiunse picchi molto più elevati di quelli correnti, presumibilmente intorno ai 2000 o 3000 ppm. A questi livelli di CO2, i primi organismi che proprio allora si affacciavano sulla terraferma si trovarono a vivere in un ambiente ben diverso da quello odierno. Temperature molto elevate, radiazioni ultraviolette, tempeste formidabili e fenomeni atmosferici violenti. Un ambiente che rimase a lungo ostile, al limite delle possibilità di sopravvivenza per la maggior parte delle specie. Finché qualcosa di inaspettato, in un tempo relativamente breve, non fu in grado di cambiare tutto, abbattendo drasticamente la quantità di CO2 fino a livelli molto più bassi e compatibili con la vita. Cos'era successo? Semplice. Le piante, Deus ex machina, di questo pianeta si erano manifestate, risolvendo con un colpo di scena una situazione apparentemente senza via d'uscita. In relativamente pochi milioni di anni, le neonate foreste arboree, assorbendo smisurate quantità di CO2 atmosferica e utilizzando il suo carbonio per creare sostanza organica, erano state in grado di ridurne la concentrazione di circa 10 volte, modificando sostanzialmente l'ambiente terrestre e rendendo possibile l'avvento di una diffusa vita animale terrestre. L'enorme quantità di carbonio rimossa in quel periodo dall'atmosfera venne fissata, attraverso la fotosintesi, nel corpo delle piante e degli organismi marini fotosintetici. E da allora è rimasta sepolta nelle profondità della crosta terrestre, trasformandosi in carbone e petrolio. E lì sarebbe rimasta per sempre, intoccata e innocua, se noi, come nei peggiori film horror, non fossimo andati a disturbare il sonno di quel mostro. Usando quell'antico carbonio come combustibile, infatti, l'uomo rilascia ogni giorno grandi quantità di nuova CO2, che non potendo essere gestita dal ciclo attuale del carbonio, aumenta la quota di CO2, libera nell'atmosfera, con conseguente amplificazione dell'effetto serra, aumento delle temperature, eccetera. Cosa possiamo fare? Certamente ridurre le emissioni, come si sente dire da tanto e da tanti. È una cosa buona e giusta, ma francamente i risultati di questa strategia negli ultimi anni sono stati impalpabili. Il 6 dicembre del 1988 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvava all'unanimità una risoluzione sul tema della tutela del clima globale per le generazioni presenti e future dell'umanità. Su questa risoluzione si è costruito l'intero processo che ha portato negli anni alla Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici del 1992, al Protocollo di Kyoto del 1997 e infine all'Accordo di Parigi del 2015. Da una così energica attività ci si sarebbe attesi splendidi risultati, che invece non sono arrivati. Dal 1988 a oggi, soltanto in 3 anni la produzione di anidride carbonica è diminuita rispetto all'anno precedente, con il risultato che le emissioni globali annue sono aumentate all'incirca del 40% rispetto all'inizio del processo. così, malgrado le buone intenzioni, rimane il fatto innegabile che questi accordi, in parte per le indubbie difficoltà e in parte per la scarsa volontà e l'inettitudine della politica, sembrano essere del tutto inefficaci. Certo, si potrebbe obiettare che senza questi trattati la situazione sarebbe potuta essere peggiore. E forse è vero, ma un aumento del 40% di CO2 in 30 anni, nonostante generazioni di scienziati e attivisti abbiano cercato di modificare la curva piegandola verso il basso, non può essere considerato un buon risultato. Quindi, cos'altro possiamo tentare? Mi sembra ovvio, lasciar fare di nuovo alle piante. Hanno già dimostrato in passato di essere in grado di ridurre drasticamente la quantità di CO2 nell'atmosfera, permettendo agli animali di conquistare le terre emerse. Possono farlo di nuovo, regalandoci una nuova possibilità. Per questo dovremmo coprire di piante qualunque superficie del pianeta in grado di poterle accogliere. Ma prima è necessario bloccare ogni ulteriore deforestazione. Il taglio delle foreste non è compatibile con la nostra sopravvivenza come specie. Dobbiamo capirlo subito e iniziare a difendere le poche residue grandi foreste del pianeta con tutti i mezzi e al meglio delle nostre possibilità. La difesa delle foreste dovrebbe diventare argomento di un trattato internazionale che vincoli il maggior numero di stati, soprattutto quelli all'interno del cui territorio si trovano le principali riserve verdi del pianeta, alla totale intangibilità delle stesse. Dalla residua funzionalità di questi ecosistemi, lo ripeto, dipende la nostra stessa possibilità di sopravvivenza. Senza una sufficiente quantità di foreste, non esiste alcuna reale possibilità di poter invertire il trend di crescita della CO2. La deforestazione dovrebbe essere trattata come un crimine contro l'umanità e punita di conseguenza. Perché è di questo che realmente si tratta. L'intangibilità delle foreste e il loro mantenimento in vita, così come l'obbligo a mantenere intatti il suolo, aria e acqua, dovrebbe trovare un posto nelle costituzioni di tutti gli stati, non solo in questa nostra costituzione della nazione delle piante. Che dalle piante dipende la nostra unica possibilità di sopravvivenza, dovrebbe essere insegnato alle scuole e ai ragazzi, e agli adulti, in ogni altro luogo. I registi dovrebbero farne film, gli scrittori, i libri. Chiunque è chiamato a mobilitarsi, e se credete che stia esagerando e non vedete alcun vero motivo per alzarvi dal divano per difendere l'ambiente e le foreste, sappiate che questa è l'unica vera emergenza mondiale. La maggior parte dei problemi che affliggono l'umanità oggi, anche se apparentemente lontani, sono collegati al pericolo ambientale e rappresentano soltanto gli innocui prodromi di ciò che verrà se non l'affronteremo con la dovuta fermezza ed efficienza. Le piante possono aiutarci, soltanto loro sono in grado di riportare la concentrazione di CO2 a livelli inoffensivi. Le nostre città, ospitando il 50% della popolazione mondiale, nel 2050 si arriverà al 70%, sono anche i luoghi del pianeta responsabili della produzione delle maggiori quantità di CO2. Dovrebbero essere completamente coperte di piante, non soltanto negli spazi deputati, parchi, giardini, viali, aiuole, eccetera, ma dappertutto, letteralmente, sui tetti, sulle facciate dei palazzi, lungo le strade, su terrazze, balconi, ciminiere, semafori, guardrail. La regola dovrebbe essere una sola e semplice. Dovunque sia possibile far vivere una pianta, deve essercene una. La cosa non richiederebbe che costi irrilevanti. Migliorerebbe una miriade di modi modi la vita delle persone. Non esigerebbe alcuna rivoluzione delle nostre abitudini, come molte delle soluzioni alternative proposte, e avrebbe un grande impatto sull'assorbimento di CO2. Difendiamo le foreste e copriamo di piante le nostre città. Il resto non tarderà a venire. Questo era il libro La nazione delle piante di Stefano Mancuso. Abbiamo letto quindi altri tre capitoli in questa seconda puntata dell'audiolibro. Mi raccomando, rimanete connesse su Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Trovate sul sito radiowombat.net tutti i podcast di questo audiolibro, ma di tutte anche le altre trasmissioni attive e non. Ci rivediamo a una prossima puntata dell'audiolibro. Buona serata a tutte e tutti, rimanete connessi. Ciao ciao da Addu.